America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Elezioni americane. Ieri elezioni sparse, minori ma importanti. Democratici hanno conquistato la poltrona da governatore in due stati chiave, la Virginia, swing state, il New Jersey, che era guidato dal repubblicano Chris Christie. Hanno vinto Ralph Northam in Virginia, Phil Murphy nel New Jersey. Una sconfitta dunque per la dottrina Trump. Si rimescolano le carte guardando al 2018 per elezioni metà mandato. Trump respinge naturalmente l'idea della sconfitta e ricorda la vittoria repubblicana del governatore dello Utah, dove ha vinto John Curtis. New York, vittoria scontata, valanga, il 65% del voto per Bill de Blasio, 56 anni, anche lui democratico. Sembra però che questa vittoria netta non aiuterà de Blasio nel rapporto con il governatore democratico Andrew Cuomo. I due non vanno notoriamente d'accordo. Novità, Virginia, la 33enne Danica Rome è stato il primo transgender eletto all'Assemblea statale. Bene. Ora vorrei tornare su un argomento di cui vi ho parlato qualche giorno fa. Sentiamo. Ecco, l'altro giorno vi avevo promesso, vi avevo anticipato che avrei dedicato una trasmissione a quello, a colui che secondo me è stato il vero vincitore di questa maratona di New York, cioè Leo Cenci. Vi ho raccontato, vi ho anticipato la storia straordinaria di questo campione, di questo atleta di 45 anni che purtroppo è malato di cancro, ha un cancro attivo che ha scoperto ai polmoni 5 anni fa e da allora è stato un calvario, perché c'è stata chemioterapia, radioterapia, la ricerca di alcuni medicinali che potessero aiutarlo ad andare avanti. Questo medicinale, lo hanno trovato, è una cura sperimentale, e questo tumore al polmone, adenocarcinoma, pensate, è in metastasi anche al cervello e alle ossa. Eppure non solo è riuscito a correre questa maratona Leo, non solo ha fatto un tempo pazzesco, perché ha fatto 4 ore 6 minuti e 16 secondi, ma per darvi un'idea, su 51.000 persone se ne è lasciato dietro 33.000 persone sane. Buongiorno Leo. Buongiorno e buongiorno Mario, e grazie per l'invito. Beh, tu hai corso la maratona, quindi è passato qualche giorno. Come ti senti? Mi sento bene, ho avuto la fortuna di recuperare in pochissimo e mi sono preparato in modo incredibile, con grazie alla preparazione preparata come un abito sartoriale per la mia patologia e la mia età. Ecco, tu tra l'altro viaggi con l'oncologo privato, di fatto, con Chiara Bennati, che ti segue da qualche anno e cerca di essere sicura che tutto vada bene. E c'è con noi, microfoni miei 24, anche Chiara. Chiara, com'è andata? È andata benissimo, oltre le mie aspettative. Lui è un atleta eccezionale, quindi alla grande, veramente. Non mi aspettavo niente se non l'ottimo successo che ha avuto. Ecco, ma è normale che una persona malata di cancro, con un cancro attivo, possa andare a correre e a fare le cose che fa lui? No, non è normale, non è abituale assolutamente. Lui è un ragazzo eccezionale, ma la ricerca ci sta aiutando moltissimo su questo punto. Grazie ai nuovi farmaci noi riusciamo a garantire ai nostri pazienti un'ottima qualità di vita. Ecco, lui è in una cura sperimentale, no? Per questo adenocarcinoma. Come si chiama questa pillola che deve prendere tutti i giorni? Si chiama lorlatinib ed è una pasticca che può prendere un paziente con un tumore del polmone che dipende da un'alterazione genetica specifica. Fa parte di un protocollo di ricerca con un farmaco ormai collaudato e approvato negli Stati Uniti. Ecco, e quindi questo è il contesto che ti ha consentito, no? Grazie Chiara, di poterti rimettere in forma e poter correre la maratona. Ma come ti è venuta questa idea di correre la maratona? Per dimostrare un po' a me stesso che comunque sto domando il cancro e ce l'ho sotto controllo. E poi, per la cosa più importante, di trasmettere un messaggio atomico che il cancro è una malattia brutta, però con la quale ci si può convivere in maniera serena, e è una malattia di cui non bisogna aver paura. Infatti tu paura non l'hai avuta, tant'è vero che hai stabilito un record, mi sembra un record da Guinness dei primati, perché sei il primo essere al mondo che ha corso per 2 volte di fila la maratona essendo malato di cancro, è vero? Sì, è vero, perché prima di me l'ha fatta nel 1992 il cofondatore della maratona di New York, un tale Fred Lebow, che la corse con un cancro al cervello, impiegandoci 5 ore, 32 minuti e 34 secondi. E già io lo scorso anno, nel 2016, quando la corsi, impiegai poco meno di un'ora del suo tempo, quindi ero già detentore del record e quest'anno, essendo, diciamo, l'unica persona al mondo ad aver corso due maratone con il cancro in atto, credo di essere entrato nell'Olimpo del mondo dello sport. Beh, questo di sicuro, guarda, perché credo, spero che i nostri ascoltatori si stiano rendendo conto della tenacia, della forza, del messaggio di speranza che viene da un uomo come Leo. Tu sei di Perugia, vero Leo? Sono di Perugia, orgoglioso di esserlo e fiero di essere umbro. Ecco, e tu non solo però hai corso, ma hai anche fatto una ONLUS, una NGO. In che cosa consiste questa tua missione filantropica? Beh, un'associazione che, visto che ho frequentato in maniera molto importante l'oncologia medica, mi sono dato la missione di essere di aiuto alle persone che non hanno preso un atteggiamento come il mio per cercare di migliorare la loro qualità di vita. Quindi ho fondato questa associazione Avanti Tutta Onlus, in cui noi cerchiamo di offrire percezione che il cancro appunto è una malattia che ci si può convivere. Ecco, e come si sente uno come te che così sa di avere una malattia terminale, perché il cancro purtroppo è una malattia terminale nel momento in cui si manifesta in questi modi. Ecco, come stai vivendo questa tua vita? Beh, io la vivo praticamente come se dovessi morire oggi, però mi piace programmare il futuro come se non dovessi morire mai, quindi ho tanta progettualità e poi immagino, e poi eventualmente c'è la grossa particolarità della fede, credo molto in Dio e fino a quando lui riterrà che io qui in questa vita terrena gli servo, non l'ha fatto prima e spero che oramai sono diventato un po' un emblema e un testimonial molto forte, lui fino a che io ho qui la sua missione non mi porti via, quindi mi sento anche abbastanza al sicuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Leo Cenci, il grande combattente, il vincitore morale, il portabandiera italiano di questa maratona di New York. Allora, Leo, cosa vogliamo far ascoltare ai nostri amici ascoltatori? La mia canzone è sicuramente It's My Life di Jon Bon Jovi. Da quando ho il cancro è veramente il mio mantra. It's my life, John Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franken said, I did it my way. I just wanna live. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Scusate, per la prima volta in questa trasmissione mi fermo sul goodbye and get going, perché mi sembra giusto che questo messaggio, che vuole essere un messaggio tutto sommato di ottimismo, ve lo dia direttamente Leo. Goodbye and get going!